C'è un primo elemento che lo spiegava questa mattina Marco Garzoni, sociologo, presidente della Fondazione Ambrosianeum, nella nostra trasmissione d'approfondimento Prisma, e che riguarda una sorta di rimozione che c'è stata non solo in Lombardia evidentemente, ma un po' dappertutto del periodo del Covid. Guai, non se ne può, non se ne deve più parlare in maniera assoluta, questa mancanza di rielaborazione del lutto, di rielaborazione di ciò che è successo, del passare tutto sommato avanti, perché in fondo la generazione che il Covid ci ha portato via, quella dei più anziani e quella dei più fragili, in qualche modo riguardava anche una generazione di improduttivi, per utilizzare una parola che è stata spesso usata da qualche politico per banalizzare e minimizzare i danni che invece il Covid ha fatto alle nostre vite. E questa necessità di passare avanti così rapidamente in una società che, come ben sappiamo, si mangia tutto con una certa voracità, questa carenza di elaborazione ha fatto sì che di fatto anche in Lombardia, come da altre parti, il tema del Covid sia stato completamente rimosso. Laddove c'è rimozione e laddove non c'è memoria, ovviamente significa anche che un fatto di quella portata non abbia poi alcuna influenza. Sono passati 3 anni, che possono essere pochissimo o un periodo immenso, forse se lo guardiamo con i tempi della politica, fa sì che di fatto ad oggi non ne sia restato sostanzialmente nulla. E questo però è un pezzettino, ma che non basta a spiegare fino in fondo la questione. Qui occorre prendersi un attimino di tempo e andare un po' più a fondo di che cosa è la Lombardia oggi. Parto da un lavoro che potete trovare ancora sul sito di Radio Popolare, fatto da 2 bravissimi economisti, che sono Roberto Romano e Paolo Maranzano, sullo stato socio-economico della Lombardia, che parte da 3 basi nell'analisi. Sono 3 basi che a noi fanno dire che la Lombardia, da un punto di vista socio-economico, è in declino, cosa che è assolutamente vera, però sono anche le 3 basi di partenza che ci fanno dire che la situazione economica della Lombardia è l'attuale punto di forza della destra che poi vince. La Lombardia in questo momento ha 3 elementi forti. Il primo, appunto, il fatto che la rendita abbia superato i redditi da lavoro nella formazione della ricchezza. Il secondo ed il terzo sono il drastico calo degli investimenti in innovazione e ricerca e le politiche di finanziamento regionali al privato, che creano profitto da una parte sul basso valore aggiunto e sul lavoro precario e dall'altra sul denaro pubblico. E faccio un esempio: di recente la Regione Lombardia ha finanziato con 100 milioni tutta una serie di imprese, di impianti di risalita, di turismo montano in zone dove ormai la neve non c'è più. E questi sono soldi evidentemente che possiamo dire a fondo perduto, che non creano sviluppo ma che arricchiscono soltanto una parte. Questo elemento di trasferimenti diretti. In Lombardia in sostanza ormai viviamo A, di rendita, e B, sul lavoro a basso valore aggiunto. È quello che il politologo Nicola Pasini della Statale di Milano definisce un radicamento d'affari, per cui in Lombardia in realtà nessuno ha davvero interesse a cambiare gli equilibri. Questo come si traduce, come ci porta poi alla questione sociosanitaria? Si traduce in un tessuto produttivo che tutto sommato percepisce il pubblico come attore di ultima istanza, cioè ce la faccio per conto mio, e se proprio non ce la faccio per conto mio, allora qui mi serve il pubblico. Dire che la sanità privata in Lombardia non funziona è sbagliato. La sanità privata in Lombardia funziona. Funziona per chi se la può permettere, e chi se la può permettere è tutto sommato una parte consistente della popolazione. Il punto è che il tessuto socio-economico della Lombardia rifiuta un pubblico che non sia un mero amministratore, ma che in ogni caso non deve mischiarsi con un ruolo di regolamentazione o di redistribuzione delle risorse. Preferisco pagarti meno tasse e pagarmi la sanità privata che non il contrario, anche se questo taglia fuori un bel pezzo di popolazione. Il problema è che, come abbiamo imparato ormai negli ultimi anni, con un'affluenza che è inversamente proporzionale al reddito, ovvero l'astensione si alza più si abbassa il reddito delle persone, sostanzialmente chi subisce queste politiche, sia sul piano lavorativo, sia sul piano socio-economico, sia su quello socio-sanitario, sono coloro che poi non votano. E per cui in sostanza il problema è esattamente questo: quella percezione di gestione negativa della pandemia non c'è stata, perché le basi socio-economiche la regione dicono che da un lato tutto sommato chi ci ha rimesso sono stati più anziani, e che ci vuoi fare, sono i più anziani, dall'altra perché un pezzo ampio di popolazione lombarda anche durante il Covid, grazie alla struttura socio-economica, se l'è cavata. cavata, e appunto il pezzo che se l'ha cavato un po' meno è tutta alla fine quello che non vota. Torno un attimo al dato dell'astensione, a quello che hai detto, perché, come dire, sono dinamiche che stiamo vivendo anche in questo territorio, cioè una progressiva espulsione dai centri, lì avete Milano, qui abbiamo Bologna, delle fasce, diciamo, con un reddito più basso, e queste persone espulse sostanzialmente dalle città non hanno più fiducia nella politica. Tanto c'è una cosa interessante, che sostanzialmente la percentuale di votanti che c'è stata alle ultime elezioni nel Lazio, ma anche in Lombardia, non è poi tanto dissimile a quella che c'è stata in Emilia-Romagna all'ultima vittoria di Bonaccini, che è stata la percentuale storicamente più bassa di un voto alle regionali in Italia. Dopo quell'elezione, in cui qualcuno aveva sollevato il problema è stato quasi immediatamente scartato, non è stato visto come un segnale d'allarme, perché si sa, e poi la politica conta le percentuali e conta i voti di chi va a votare. In Lombardia, come nel Lazio, si è sostanzialmente riproposta un po' la medesima dinamica. E c'è una cosa interessante sulla Lombardia e sull'astensione, non ho ancora visto molto nel dettaglio, però sostanzialmente l'uniformità del dato. Questa volta la città di Milano non ha portato a votare così tante più persone rispetto alla provincia, con una dinamica che poi è la stessa ed è quella che descrivevo prima all'interno delle varie aree, e cioè dove l'affluenza si abbassa parallelamente al calare del reddito. A Milano questo processo di espulsione dai centri verso le periferie, ma ormai anche al di fuori delle periferie, e perché abitare anche in periferia a Milano sta diventando proibitivo, viaggiamo in aree periferiche poco servite ad affitti di appartamenti monolocali, bilocali, che si aggirano intorno agli 800-900 euro, e distanze singole che possono arrivare anche ai 600-700 euro, viaggiamo su queste cifre qua, in una città che dal punto di vista del lavoro e dello stipendio non ha una dinamica molto diversa nel resto della Lombardia, perché offre e produce lavoro nel terziario, nei servizi, ristorazione, turismo, eccetera, cioè nei classici settori a bassissimo valore aggiunto, che producono molto profitto, ma producono molto profitto sulla base proprio di salari bassi e di lavoro precario, oltre che sulla rendita immobiliare, che è l'altro grosso elemento che produce ricchezza a Milano. In questo la città non è molto diversa dal resto della regione, e quando si tratta poi di andare a votare alle regionali le dinamiche che vediamo sono piuttosto simili. E cosa cambia tra la città e la provincia di Milano e Lombardia? Cambia l'azionista politico di riferimento. A Milano città il centro-sinistra, il candidato del centro-sinistra Maiorino ha vinto a Milano città quasi con il 48%, ma per quanto riguarda il resto della regione il radicamento di interessi che descrivevo prima è sostanzialmente inespugnabile, e però si basa esattamente sulla medesima dinamica di conservazione di uno status socio-economico che prima Pisapia, ma poi Sala negli ultimi anni, a Milano hanno sostanzialmente garantito, con una presenza del pubblico che ha smesso di essere soggetto di redistribuzione di risorse e regolatore dei processi, ma che sostanzialmente sta a guardare, favorendo proprio quei settori economici, la rendita immobiliare, il settore del terziario e dei servizi, che producono ricchezza, ma non per tutti. Lo hai detto, ma te lo chiedo, te la metto giù in modo ancora più esplicito, insomma, in base a questa composizione della struttura socio-economica della regione, il centro-sinistra non viene percepito e non rappresenta un'alternativa. Ma in regione no, perché dovrebbe esserlo, tutto sommato, quando chi governa la regione, peraltro la Lombardia nel periodo post-DC è sempre stata governata dal centrodestra, tranne per una piccolissima parentesi iniziale, per cui parliamo di un radicamento storico che ovviamente non si cambia da un'elezione all'altra, e per le ragioni che dicevo prima, so che sembra un paradosso detta così, ma non basta certo una pandemia a far cambiare questo tipo di percezione, per cui siamo esattamente in questa situazione qui, un centro-sinistra che nel fortino di Milano città tiene perché garantisce i medesimi interessi, con la spruzzata rosa, potremmo definirla, cioè quell'attenzione ai diritti civili, a un'apertura anche di respiro internazionale che alla provincia però sostanzialmente non interessa, per cui non ha alcun tipo di presa al di fuori della grande città. Lo stesso discorso può valere ad esempio per Brescia, Bergamo, dove anche qui la dinamica è stata un po' la stessa in queste elezioni. Quella che nella città può venire percepita come un'alternativa perché non tocca gli interessi economici, ma da uno sguardo un po' più attento ai diritti civili, in regione non lo è. Va da sé che l'unica via per scardinare questo sarebbe provare a parlare con quel 30-40% di esclusi che strutturalmente non vota. Per farlo però vuol dire dover mettere in discussione la garanzia di quegli interessi che dicevamo prima. Questo può essere un problema nella città come Milano, che come il resto della regione comunque vive di rendita e comunque vive appunto di lavoro a basso valore aggiunto, perché c'è il rischio che in questo equilibrio precario anche quella spruzzata cosmopolita non basti ovviamente più. Questo, secondo me, da un approccio socio-economico alla lettura di questo dato, rappresenta un po' lo strano tunnel in cui il centro-sinistra si è cacciato all'interno della Lombardia. Va da sé che in questa dinamica anche le proposte alternative a sinistra del PD e dell'area che gravita intorno al PD difficilmente troveranno spazio. Uno, perché di fronte ad una serie di problemi urgenti ed importanti comunque non riescono ad intercettare quel pezzo di popolazione, per usare ancora le parole di Marco Garzonio, sono quelli che vanno in fila al pane quotidiano per cercare di mangiare, sono quelli esclusi dal discorso pubblico e dalla vita della città, sono quelli che vivono di quei lavori precari poco remunerati. Difficilmente riesce ad intercettarlo, da una parte perché ovviamente non può offrire una risposta immediata a questo tipo di problemi, e dall'altra perché ovviamente si fa una proposta politica che giustamente mette in discussione questi elementi di rendita, ma che dall'altra però, proprio perché li mette in discussione, non è molto ben vista in una regione, in quella parte di regione e di votanti che tutto sommato ce la fa, e che anche per quanto riguarda quel pezzo di elettori di centro-sinistra, questa mediazione tutto sommato all'interno della città l'ha accettata, ovvero manteniamo uno status quo all'interno del quale tutto sommato stiamo anche noi, quindi rendita immobiliare, una città che vive di questo tipo di lavoro, in cambio di un po' di diritti civili, perché se tocchiamo questo equilibrio rischiamo di perdere anche qui. Questo è il ragionamento, certo. Questo però ovviamente non permette di mettere in discussione quello che succede fuori dalla città.